Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Quelle che sono le verdure più bistrattate proprio perché sono ricche di quei composti solforati. Mm. Più puzzano, che... più fanno bene, dottor Arzegovesi. Questo è un po'... mettere un nuovo motto per la in tavola. Aspettiamo. Grazie anche magari un suo pezzo, chissà mai. Questo però non durante l'ora di pranzo, perché ribalterebbe sicuramente, è un rock abbastanza importante. Va bene, ma... così. Vabbè, ma noi abbiamo le giornate lunga. E chissà se qualcuno di voi sta cucinando con un sottofondo musicale. Buongiorno, buona domenica, accomodatevi, c'è la bufala in tavola. Oggi mettiamo l'Italia a capotavola, riuniamo l'Italia legandola con le ricette della nostra tradizione. Straordinario, fantastico, restate lì. Squilla più, il tuo ragazzo preso il volo. E buona domenica ai nostri primi due amici che si sono già accomodati, naturalmente lontani ma vicini, in linea con noi, prontissima Sonia Peronacci. Sonia, bellissimo, sono felice. Buona domenica. Ciao, ciao, buona domenica anche a voi. Cuoca, blogger e autrice de La cucina di Sonia Peronacci, viaggio goloso tra i sapori d'Italia, che è freschissimo di stampa, e io sono molto contenta perché proprio leggendo e sfogliando il tuo libro insieme a Laura Vanossi abbiamo pensato: ma noi siamo tutti divisi, lontani, non possiamo vedere cugini, amici, parenti, allora virtualmente ci riuniamo come? Con le ricette della nostra tradizione. Voilà il libro, ma tu mi hai letto, esatto. Ma fantastico. Esatto, ma è stato molto divertente tra l'altro farlo, perché io ho scoperto un sacco di ricette che non conoscevo, ho messo nel libro un sacco di ricette che magari ho scoperto facendo dei viaggi, sai, girando per l'Italia per lavoro ma anche per diletto, e quindi mi sono molto divertita a scegliere 80 ricette da inserire nel libro, perché ci sono 4 ricette per regione, ovviamente dall'antipasto al dolce, e quindi ho dovuto fare una cenita e ne ho trovate tantissime, e ho scelto tra le più, diciamo, conosciute ma anche tra le meno conosciute, proprio per fare un mix, anche perché anch'io ho scoperto cose nuove. Fantastico, anche perché Sonia, dentro di noi c'è sempre uno chef, magari un po' addormentato, ma con le tue ricette lo stiamo risvegliando. E a Sonia abbiamo chiesto di ricomporre l'Italia come? Creando un menù saltabeccando di regione in regione, e adesso ci arriviamo. Abbiamo pensato infatti, Sonia, di affidarti proprio il menù della domenica, un menù molto ricco, alla domenica si può, quindi antipasto, primo, secondo, dolce, non ci facciamo mancare nulla, neanche la suocera, perché quando... E la nostra suocera, la suocerina della domenica della bufala in tavola, è niente po' di meno che il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno, dottor Gualerzi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Mi si addice proprio, quello di suocera mi va bene. Sì. Vero? Allora, il dottor Gualerzi è cardiologo, esperto in riabilitazione cardiometabolica, grande esperto naturalmente in nutrizione e alimentazione. E gli diamo questo incarico perché, con grande simpatia per tutte le suocere, ma lui dovrà fare un po', mettere un po' i puntini sulle i, dire: beh, questo è buono, potevi fare meglio, però ti aggiungi questo qua, ma attenzione che c'è, no? Ingrassa un pochino. Insomma, dottor Gualerzi, lei la suocera la sa fare? Sì, anche se sostanzialmente, visto che siamo di domenica, sarò una suocera buona, un pochino più di manica larga. Perfetto. Allora, intanto Sonia è pronta e preparatevi anche voi, mandateci i vostri piatti, quelli della vostra città, della vostra regione. L'Italia, come sappiamo e come ha anticipato Sonia, è ricca di piatti di gusti e sapori, quindi scatenatevi. La pagina Facebook di Obiettivo Salute, come sempre, è a vostra disposizione. Scrivete, scrivete, scrivete, e intanto mangiamo, mangiamo, mangiamo. Anzi, partiamo, Sonia. Antipasto. Sì? Allora, come antipasto ho scelto le acciughe ripiene alla ligure, che diciamo che sono fritte, però si possono fare anche al forno, sono semplicissime, basta prendere un'acciuga appunto di riscarla, aprirla libero, fare un ripieno con pane, ci sono delle acciughe sotto sale, acciughe fresche, uova, aglio, prezzemolo, latte, insomma è un ripieno diciamo come se fosse una polpetta per intenderci, un pochino più compatta, la mettiamo all'interno dell'alice, la chiudiamo un po' come se fosse un occhietto, si passa nella semola di grano duro e poi si frigge, oppure si possono mettere tutti in una teglia, un filo d'olio e metterlo in forno. E queste sono diciamo abbastanza semplici, e poi si mangia il pesce azzurro che fa sempre molto bene. È vero, infatti, e poi per questo noi partiamo dalla Liguria. Dottor Gualerzi, le ha dato già anche le alternative per accontentarlo, fritto in forno? No, innanzitutto sono molto felice perché partire con un antipasto col pesce azzurro per un cardiologo è un invito appunto a nozze, se non a tavola, insomma. Diciamo che sappiamo bene, le alici e le acciughe hanno due caratteristiche sostanzialmente. Innanzitutto si trovano tutto l'anno e quindi non abbiamo problema della freschezza. E l'altro aspetto, sappiamo bene che è un pesce azzurro grasso, ma un grasso buono, quei grassi che appunto molto spesso mancano, che sono gli omega 3, è un giusto rapporto tra omega 3 e omega 6, quindi diciamo un'azione antinfiammatoria e anche di protezione delle nostre arterie. Vorrei spezzare una lancia appunto perché quasi no, con timore diciamo fritto il forno. Devo dire che una buona frittura fatta diciamo con l'olio al giusto punto di temperatura ha anche un'azione detossificante per il fegato rispetto a quanto si possa immaginare. Ma no, ma questa è bella, ma cosa mi dice? Cioè, Sonia, ma l'hai conquistato? No, aspetti che ci siamo sovrapposti un attimo, tanto era l'entusiasmo. Perché, è vero. Ecco, Sonia Peronacci l'ha conquistata, adesso ci passa anche il fritto per il fegato. Che cosa mi sta dicendo? Bellissimo. Dottor Gualerzi. Diciamo che in molte diete detox mettiamo anche la frittura perché è fatta, come ripeto, in modo appropriato, giusto, rispettando le temperature e usando diciamo degli oli buoni, abbiamo la possibilità di trasformare quella minima, diciamo anche note negative che si accompagna al fritto, a un'azione positiva di rigenerazione del fegato e di detossificazione del fegato. Quindi, perché no, visto che è domenica e visto che sono anche più buone, diciamo che ci accontentiamo di mangiare le acciughe piene fritte, che non è male. Dai, allora, e noi l'antipasto ce l'abbiamo. Acciughe ripiene, addirittura fritte. Se non volete schizzi in cucine, cosa, fruc, si infilano nel forno. Noi ci fermiamo perché il menù è particolarmente ricco. Restate con noi, saltabecchiamo di qua e di là, di regione in regione, insieme a Sonia Peronacci, che ha scelto e composto il menù per noi, estrapolando le ricette dalla cucina di Sonia Peronacci, viaggio goloso tra i sapori d'Italia. E la nostra suocerina con noi, il dottor Massimo Gualer. La bufala in tavola. La salute viene mangiando e noi prendiamo spunto dalla tradizione della nostra cucina straordinaria per ricomporre l'Italia a tavola, soprattutto in questo momento in cui ci sentiamo lontani e divisi. Virtualmente seduti alla tavola della bufala in tavola, andiamo a mangiare qualche cosa di buono e di salutare. Chi mangia bene si nutre meglio. Sonia, abbiamo iniziato con le acciughe ripiene, quindi dalla Liguria, per i primi piatti invece dove ci porti? In Toscana, vi porto in Toscana con gli gnudi, che a me piacciono in particolar modo, si chiamano così perché in realtà non hanno il rivestimento esterno di una pasta fresca, ma c'è solo l'interno, ovvero spinaci freschi, della farina, dell'olio, della ricotta, c'è un uovo, Nicoletta, c'è un uovo, c'è del parmigiano reggiano grattugiato, aglio, noce moscata, sale e pepe. Si fa praticamente un impasto, ovviamente spadellando gli spinaci, si strizzano bene, si rendono asciutti, si tritano e si impastano con tutti questi ingredienti. Poi si devono formare delle quenelle, praticamente prendendo un po' di impasto con un cucchiaio si passa nell'altro cercando di dargli appunto una forma, come posso dire, a polpettina allungata, che si va poi delicatamente a mettere a bollire nell'acqua salata, e sempre altrettanto delicatamente si prendono e si poggiano nel piatto. Qui il condimento non è altro che un po' di burro e salvia con un po' di parmigiano, quindi sono molto semplici. Così belli nudarelli, li tuffiamo, nudarelli, nudi, proprio perché non hanno la pasta che li avvolge. Dottor Gualerzi, qua la suocera gioca facile. No, gioco facile nel senso che è un ottimo stratagemma, al di là che appunto nasce dalla tradizione toscana, come abbiamo sentito, e quindi un piatto verace, un piatto vero che ha le sue proprie peculiarità. ma diciamo che ci sta bene all'interno di un pasto un pochino più abbondante, dove con questo stratagemma avanziamo, cioè non mettiamo quelli che sono i carboidrati, cioè la pasta che starebbe attorno ai classici tortelli che vengono dalle mie parti, quindi mangiamo solo ripieno, che poi si tratta sostanzialmente di verdure, proteine e un po' di grassi anche saturi, però quindi è un falso primo che ci permette quindi magari di lasciarci anche un posticino per delegare i carboidrati magari nel dolce della domenica. Quindi è un'ottima idea per fare un pranzo completo e non diciamo accumulare troppi carboidrati nell'arco del pranzo. Logicamente le proprietà delle verdure, non le scopriamo adesso, anche bollito o comunque anche cotte, mantengono le loro proprietà, soprattutto le spinaci, anzi le possono esaltare anche in associazione con alcune spezie che favoriscono appunto l'assorbimento del ferro contenuto nelle verdure stesse. Quindi è un ottimo primo di passaggio che non ci appesantisce e ci permette poi di continuare il pranzo in modo diciamo spavaldo, senza essere da pieni con i carboidrati. Dottor Gualerzi, burro e salvia, che cosa mi dice? Allora, anche come abbiamo detto prima, allora abbiamo molto spesso anche noi che ci occupiamo di nutrizione vituperato comunque questi grassi saturi e via dicendo. Devo dire che in realtà il burro, quando viene anche chiarificato, comunque quando si utilizza in cucina nelle giuste dosi, non è assolutamente pericoloso, anzi, senza esagerare, un po' di grassi saturi del burro nella cucina ci stanno benissimo. E la salvia in un certo modo rappresenta una di quelle erbe che si portano dietro dei micronutrienti fondamentali per l'energizzazione della cellula e in più ci dà anche un'altra proprietà che sono simile a tante altre diciamo piante, che può dare un po' di senso di sazietà quando la mangiamo. Quindi in questo momento non abbiamo bisogno, perché dobbiamo ancora affrontare la fine del nostro pranzo, però obiettivamente queste piante all'interno dei nostri cibi possono lenire appunto la fame, che molto spesso è una fame nervosa, e quindi nel corso della settimana va bene, magari la domenica è un'azione meno utile, ma comunque diciamo ci serve sempre. Il nostro viaggio goloso tra i sapori d'Italia, Sonia, ho rubato addirittura il titolo del tuo libro per arrivare, per invitarti a proseguire con il nostro secondo, dove ci porti? In Liguria, Toscana, dove andiamo? Beh, adesso andiamo in Sicilia a prendere un po' di caldo, un po' di sole. Ah sì, e quindi... dai, e di profumi, che e profumi, meravigliosi, vero? E qui ho scelto ovviamente il pesce spada, che insomma in Sicilia non puoi non mangiarlo, ma la particolarità è che sono degli involtini di pesce spada alla messinese, quindi bisogna tagliare il pesce spada molto sottile e ottenere quindi delle fettine, e poi riempirle con l'uva passolina, che sarebbe l'uva di Corinto, sai, quella piccola che si usa molto in Sicilia, sì. Non è facilmente trovabile, ma vabbè, la possiamo sostituire con l'uvetta normale. Poi abbiamo un ripieno che è fatto con lo stesso pesce spada un po' tritato, pinoli, aglio, basilico, prezzemolo, pecorino, pangrattato, ci sono dei limoni sia la scorza che per profumare il ripieno, sia delle fettine che vengono poi messe quando arrotoli il ripieno nella fettina di pesce spada, viene infilzata e viene praticamente messa una fettina di limone, una fettina d'alloro, l'involtino, poi ancora l'alloro, il limone e così via, perché ovviamente in Sicilia i colori sono sempre molto importanti, no? Quindi loro giocano molto con questa cosa, e anche i sapori e anche l'agrodolce, per quello che loro hanno spesso l'uva passa, che dà quella nota di dolce che piace molto. E poi ovviamente quando si fanno tutti questi involtini si mettono in una teglia con un filo d'olio e si gratinano, quindi anche questo diciamo che è un secondo piatto saporito, ma anche abbastanza leggero se vuoi. Ecco, chiudete gli occhi e sentite già il profumo, mentre il dottor Gualerzi farà un po' le punte. Dottor Gualerzi, insomma, il pesce che io adoro in realtà, come ha già detto appunto, è ricco di colori, e dove ci sono i colori ci sono gli antiossidanti. Il pesce non lo scopriamo noi, comunque insomma delle proprietà molto importanti, questo pesce che non rientra nel pesce azzurro, ma ha delle proprietà, è un pesce molto magro in questo caso, ricco di proteine buone, che non si portano dietro appunto i grassi saturi come normalmente fanno ad esempio le proteine animali, e quindi abbiamo un'azione veramente nutriente molto importante. Mi permetto di dire una cosa, ci sono anche delle varianti, quindi faccio anche la suocera a cuoco, dove vengono utilizzate pomodoro. E cacchere, no, a condimento. Ecco, lo dico perché, visto che ho mangiato diverse volte questo piatto anche in Sicilia con i capperi, lo dico perché questo momento in cui tutti siamo alla ricerca di antiossidanti, anche di sostanze che sono state un po' sdoganate anche purtroppo in questo momento di pandemia, perché i capperi è uno degli elementi che più di tutti hanno dentro questa sostanza famosa chiamata quercitina, che oggi va molto di moda perché ha un'azione anche antivirale, quindi magari se ci sta, se la cuoca ci dà il permesso, gliele mettiamo dentro. Certo è, certo, gli antiossidanti e il pesce spada, contenendo selenio, ha un'azione di potenziamento importante del nostro sistema immunitario, quindi intanto che mangiamo ci facciamo anche una dose di antiossidanti e di potenziamento per il nostro sistema di difesa. Sonia, del centro, del cuore dell'Italia, che cosa prendiamo? Ma senz'altro l'olio. Noi abbiamo in tutta Italia tanti oli pregiati, ma dal centro Italia sicuramente un olio bello profumato e strutturato. E il dottor Gualerzi Vanozze con l'olio, il farmalimento, antiossidanti, polifenoli. Dottor Gualerzi. Qua mi attacco alla bottiglia quanto come se fosse uno spumante, quindi diciamo che sull'olio abbiamo poco da aggiungere. Diciamo che noi italiani siamo fortunati perché abbiamo questo spettacolare condimento che, oltre a renderci più saporite, più gustose le pietanze, ci protegge davvero da tante cose, anche dalle malattie non solo cardiometaboliche ma anche neurodegenerative. Ricordiamocelo sempre che questi oli insaturi che troviamo nel pesce azzurro, ma troviamo soprattutto nell'olio d'oliva, vanno a proteggere le nostre cellule, anche quelle nervose. Devo dire che quando ripercorriamo, questa è la vera dieta mediterranea, quella che stiamo raccontando oggi, fatta di qualità del cibo, di cibo che viene dal territorio e di, diciamo, sapienza antica che lo trasforma senza stravolgerlo. Quindi diciamo che se mangiassimo veramente così avremmo il gusto, la qualità, ma anche l'energia e anche, diciamo, le sostanze protettive che il nostro cibo naturale ci dà sempre. Non dobbiamo rovinarlo, ma appunto la nostra cuoca sapiente lo trasforma e basta, e ne esalti i sapori senza alterarne appunto le caratteristiche. La sento anche un po' poeta, dottor Gualerzi, oggi. Si vede che il ruolo della suocera le piace, piacerebbe anche a me, non sapete quanto, ma questa è un'altra storia. Dottor Gualerzi, approfittiamo, stiamo parlando di olio extravergine d'oliva, ripetiamo una raccomandazione. Molte persone, quando pensano di devono perdere peso, eliminano l'olio, il condimento, come condimento, e eliminano anche i carboidrati. Attenzione, queste sono rinunce che non pagano, anzi possono tornarci contro. Dottor Gualerzi, sinteticamente un messaggio per dire usate i grassi, sono l'olio utili. L'olio non lo togliamo mai nelle diete, casomai ne limitiamo, per appunto non fare come ho fatto prima io, che mi sono attaccato alla bottiglia, giusto in senso figurato. Quindi l'olio non lo togliamo, i carboidrati li moduliamo, facilità, diciamo, promuovendo quelli un pochino più integrali, quelli un pochino più antichi, ma utilizzandoli, magari togliendo i carboidrati come dolci, dolci semplici, zucchero semplice, ma viva la pasta al dente, viva i nostri cereali e viva soprattutto l'olio. Quindi una buona pasta con l'olio condita, con il pesto, con il pomodoro, con la verdura, e deve essere presente in tutte le diete per non abbassare il metabolismo. Chiudiamo in bellezza con una torta che Sonia ha scoperto. E quindi la condivide con noi questa gustosa scoperta, la ricetta ce la regala, che la mettiamo sulla pagina Facebook. Sonia, quale torta hai scelto per le amiche e gli amici della Bufala? Allora, torta cremona, una torta lombarda che ho scoperto tra l'altro da poco, assaggiandola in loco l'ho vista, insomma, che meraviglia. Ed è una torta piuttosto semplice come contenuto, ma molto bella da vedere esternamente, perché ha un effetto un po' ottica, piena di rombi, di losanghe fatte con la confettura. Allora, ha una frolla come base, poi ha sopra la frolla un po' di confettura di albicocche, poi c'è una crema che viene detta frangipane, che però dopo cotta assomiglia ad una torta, non ha la consistenza della crema pasticcera, sembra una tortina. Sì. E sopra questa crema, prima di infornarla, si fanno delle losanghe con la confettura, in modo che poi cuocendo queste rimangono sopra e poi si spolverizza con lo zucchero a velo. E quindi ha un bellissimo effetto proprio da vedere, è molto semplice perché, ripeto, non ha creme all'interno, è soltanto una torta da merenda o da colazione con la confettura e poi questa farina di mandorle all'interno che forma questa cremina che, una volta cotta, diventa proprio come una tortina. Ed è molto molto buona, devo dire, nella sua semplicità. Allora, su questo non vogliamo il commento del dottor Gualerzi. Dottor Gualerzi, alla suocera porzione doppia, così la zittiamo, è contenta, le diamo la fetta più grande. Sonia ci regala la sua ricetta che noi postiamo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, così se volete prepararla insieme ai vostri bambini, alle vostre suocerine, noi siamo contenti. Grazie a Sonia per questo viaggio goloso tra i sapori d'Italia, che tra l'altro è il titolo del suo libro appena uscito. Grazie, grazie al dottor Gualerzi che ci ha accompagnato come sempre con simpatia e competenza, si è prestato a fare la suocera della bufala in tavola. Grazie a tutti voi e buona domenica. Grazie. Noi continuiamo a stare insieme. Restate lì, facciamo una pausa e ritorniamo subito dopo. La bufala in tavola. Torna come ogni domenica la nostra rubrica E adesso cosa mangio? Mi raccomando, non dimenticate di scriverci a obiettivosalute@radio24.it o di mandarci un vocale al numero 335 830 4306, per qualunque vostro dubbio sulla relazione tra alimentazione e salute. Avete un dubbio, un quesito, volete essere in qualche modo volete essere aiutati per ritornare in forma o mantenere la vostra forma, scriveteci e telefonateci. Adesso andiamo subito a sentire le richieste di questa settimana. Buongiorno, cosa poter fare quando per motivi di lavoro termino la serata abbastanza tardi, intorno alle 10, e ceno verso quell'ora? Dopodiché la stanchezza si fa sentire e non passa poco più di un'ora che vado a dormire. Volevo sapere cosa poter fare per migliorare la digestione e il sonno in maniera congruente ai miei orari di lavoro. Grazie, Matteo da Milano. Sentiamo la seconda richiesta, dopo quella di Matteo andiamo a... Ciao, buongiorno, sono Chiara da Verona. Dalle mie ultime analisi avevo i valori TSH e dell'emoglobina un po' fuori. La TSH era poco sotto i 5,50, l'emoglobina sui 110 con i globuli piccoli, e il medico mi ha dato la correzione con i farmaci, la tiroxina e il ferro, che stanno funzionando, ma volevo provare ad aggiustare il tiro con l'alimentazione. E io corro 3 volte a settimana e la carne non mi fa tanto impazzire. E potete consigliarmi, darmi un consiglio su come fare? Grazie dell'attenzione, buona giornata. Ci aiuta oggi a rispondere la dottoressa Serena Missori. Buongiorno dottoressa, che bella averla con noi. Endocrinologa, nutrizionista e autrice di Un giorno, un mese, una vita, il mio menù esistenziale per vivere in forma e senza stress. Allora, partiamo proprio, un libro che sembra scritto apposta per Matteo. Partiamo da Matteo che probabilmente, come spiega lei nel suo nuovo libro, cerca un po' una strategia per ottimizzare il tempo. E ha assolutamente ragione, perché giustamente, come Matteo e tanti altri, tornano a casa molto tardi e si ritrovano con il dilemma di adesso che cosa mangio, e poi devo mangiare qualcosa che mi consenta di dormire, perché se si mangia troppo gli alimenti sbagliati si rischia poi di non riposare correttamente e di iniziare la giornata successiva con il piede sbagliato. Quindi sicuramente qualcosa che favorisca il rilassamento, senza aver paura di prendere peso, quindi sfatiamo questo mito. Quindi anche una bella pasta al dente, quindi non troppo cotta, condita con dell'olio extravergine d'oliva, con delle spezie, con delle verdure, sono sicuramente l'ideale, per esempio rispetto ad una zuppa. Andiamo incontro all'inverno, le zuppe tendiamo a prediligerle, però le zuppe per esempio di notte possono causare un po' di reflusso e quindi dare magari dei risvegli inopportuni. E poi fare una scelta oculata sulle proteine da associare a questo questo piatto di pasta, ma anche a un piatto di riso integrale, per esempio. Devono essere proteine che si digeriscono molto velocemente e quindi possono andare bene delle uova in camicia, quindi cotte nell'acqua, delle uova strapazzate, e vanno evitate per esempio le uova sode, perché hanno tempi di digestione molto lunghi, anche di 4-5 ore, mentre quelle cotte in acqua leggermente strapazzate in 35 minuti, 45 minuti sono belle che digerite. Poi per quanto riguarda la carne, è meglio scegliere la carne bianca, ad esempio un petto di tacchino che contiene triptofano, che è il precursore della serotonina, che è il precursore della melatonina, così ci aiuta a dormire meglio, rispetto alla carne rossa che invece stimola la dopamina e quindi ci fa risvegliare e che ha tempi di digestione molto più lunghi. Associamoci un po' di verdura saltata in padella, non lessata, ma saltata in padella con un po' d'olio per favorire la digestione, e la cena anche tardi in questo modo può essere nutriente, gustosa e facilitare il sonno. Fantastica, dottoressa Missori, lei ha dato delle indicazioni preziosissime per tutte le persone che, gioco forza, devono mangiare tardi, nonostante sappiano bene che l'invito solitamente di medici nutrizionisti è di anticipare la cena di qualche ora, ma bisogna fare un po' di necessità a virtù. Grazie dottoressa, e siamo pronti per la seconda richiesta, e in questo, anche in questo caso, dottoressa, sul problema della nostra ascoltatrice, lei ha proprio scritto un libro di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, che si intitola per l'appunto La dieta della tiroide. Che consigli possiamo dare quindi? Allora, dei consigli in realtà molto precisi, perché la vostra ascoltatrice ci dice che ha un TSH alto, quindi ha un ipotiroidismo e associato ad un'anemia. Quello che non ci dice è se ha un ipotiroidismo puro o se ha un ipotiroidismo dato da una tiroidite autoimmune. Quindi consiglio comunque a tutte le persone che hanno problemi di tiroide di capire esattamente che tipo di problema è, perché da un punto di vista nutrizionale si può gestire diversamente. Sicuramente c'è, come anche si fa a capire? È il medico che deve dircelo, dottoressa. Si può capire con degli esami specifici, per esempio facendo il dosaggio degli anticorpi, antitiroglobulina, antitiroperossidasi o antirecettore del TSH. Se questi sono positivi, soprattutto gli antitiroglobulina e gli antitiroperossidasi, si parla di tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto, che può far scivolare la nostra funzione tiroidea verso l'ipotiroidismo, ma anche verso l'ipertiroidismo se sono presenti gli anticorpi antirecettore del TSH. Quindi questo fa la differenza anche sulla gestione nutrizionale ed integrativa delle problematiche tiroidee. E appunto nel libro io faccio esattamente questa distinzione, cioè quali sono i consigli per chi ha solo un ipotiroidismo, quali sono i consigli per chi ha un ipotiroidismo associato ad una tiroidite. Però quello che intendo appunto di dire alla vostra ascoltatrice è, per esempio, di prediligere il pesce, perché il pesce è più ricco di iodio e fra l'altro lei non ama neanche la carne, quindi di integrarlo all'interno della dieta anche settimanale, anche 4-5 volte a settimana. Pesce da associare per esempio alle crucifere. Si dice sempre che chi soffre di ipotiroidismo non deve consumare le crucifere perché sono ossigene. Allora, le dobbiamo consumare perché ci fanno bene e sono anche anticancro. Associamole al pesce che è ricco di iodio, così andiamo a mitigare questo potenziale effetto ossigeno. Evitiamo la soia e derivati della soia perché rallentano la funzione tiroidea. Almeno in uno dei pasti della giornata, se non viviamo in una zona vicino al mare e non consumiamo troppo pesce, un pizzico di sale iodato da aggiungere alla dieta va più che bene. E ricordiamoci che la tiroide è una struttura prevalentemente proteica, quindi non dobbiamo mai trascurare nei nostri pasti principali, colazione, pranzo e cena, la quota proteica nella dieta, quindi evitare in questo caso di fare una dieta dissociata, perché la nostra tiroide ha sempre bisogno di proteine, soprattutto per esempio di tirosina. La tirosina è l'aminoacido da cui poi parte la sintesi degli ormoni tiroidei, e lo troviamo per esempio nei pistacchi, quindi magari una manciata di pistacchi non salati da consumare ad uno snack ci può aiutare a mettere il turbo al metabolismo tiroideo. Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Ricordo La dieta della tiroide e ricordo anche, l'abbiamo citato per il caso di Matteo che aveva bisogno di ottimizzare un po' il tempo, l'ultimo libro della dottoressa Missori, che è Un giorno, un mese, una vita, il mio menù esistenziale per vivere in forma e senza stress. Dottoressa Missori, grazie e buona domenica. Grazie a voi. E noi continuiamo a chiacchierare dalla tavola della bufala in tavola, a ricevere amici e ospiti, e lo facciamo naturalmente con gentilezza. Il momento della condivisione del pasto è un momento particolare per tutte le famiglie, lo è soprattutto ora in questo momento così delicato. Molte famiglie che sono separate fanno videochiamate per in qualche modo ritrovarsi in questo momento speciale, un momento che in questa settimana in cui abbiamo parlato tante volte di gentilezza vogliamo rendere ancora più gentile. Sì, perché la tavola può essere gentile, la nostra dieta può essere gentile. Ci sono delle sostanze, infatti, che rispondono a dei bisogni del nostro organismo. Ne parliamo con il professor Giovanni Scapagnini, ordinario di nutrizione umana all'Università degli Studi del Molise, vicepresidente della Società Italiana di Nutraceutica. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno. E con il professor Vincenzo Sorrenti, che è docente di farmacologia all'Università degli Studi di Padova. Professore, buongiorno. Buongiorno, si accomodi. Buongiorno, grazie per l'invito. Professor Scapagnini, sì. Vorrei da lei una definizione più corretta di quella che probabilmente ho dato io sui nutrienti gentili. La nostra dieta può essere gentile nel senso che può rispondere ai nostri bisogni nutrizionali, ma può essere gentile con il nostro organismo. Diciamo che se pensiamo alla gentilezza nell'accezione di cortesia o delicatezza, la nutrizione in termini funzionali è uno degli strumenti più gentili rispetto alla possibilità di mantenere la salute nel nostro organismo. Il cibo contiene una serie di sostanze che al contrario dei farmaci, che agiscono in maniera molto irruenta e quindi a volte estremamente efficace, ma sicuramente non gentile, hanno la capacità di dialogare con il nostro DNA, con la nostra biochimica e in maniera molto delicata condizionare lo stato di salute. Professor Sorrenti, ogni fase della nostra vita probabilmente ha i suoi nutrienti gentili. Mi sto allargando? Sì, assolutamente è così, ed è importante riconoscerli, proprio perché ogni fase della vita ha degli alimenti che devono essere introdotti con la dieta per il benessere della persona. Pensiamo ad esempio all'infanzia, dove l'alimento per gentilezza d'eccellenza è il latte materno. Fino ai primi 6 mesi di vita il latte materno è insostituibile per i nutrienti per il piccolo, e dopo il latte materno si può continuare l'alimentazione gentile per l'infante con la vitamina D, alcune molecole presenti ad esempio nel pesce azzurro, il DHA, che è essenziale per lo sviluppo del sistema nervoso del bambino. E poi quali sono altri alimenti gentili? Sicuramente le molecole contenute nella frutta e nella verdura, i famosi prebiotici, che sono delle fibre solubili o insolubili, che sono utili per garantire una corretta fisiologia e crescita del bambino. Per rendere gentile la tavola dell'adolescente, quindi rispondere alle tante richieste di un organismo che sta affrontando una rivoluzione, direi. Assolutamente sì, e nell'adolescenza i ragazzi sono spettatori consapevoli di tutte le mutazioni che avvengono, corporee, fisiche, emotive, e molto spesso l'alimentazione segue una sorta di condivisione di cibi creati fra gli adolescenti, per cui c'è a volte un eccesso nel consumo di cibi che danno gratificazione a base di zuccheri, carboidrati semplici. Questo non è corretto. Quello che invece dobbiamo apportare nell'adolescente sono sicuramente tutta una serie di nutrienti che troviamo ancora una volta nella frutta e nella verdura, vitamine, minerali essenziali, nonché alimenti proteici che aiutino l'adolescente per il suo corretto sviluppo corporeo e anche mentale. Pensate che durante l'adolescenza il cervello cambia in maniera drastica, si ha la cosiddetta potatura delle sinapsi, si formano le funzioni cognitive superiori, come il giudizio, che è fondamentale per l'adolescente e per poi la sua maturazione finale. Per cui alimenti come il pesce azzurro, ancora una volta sgombro, sardine, aringhe, merluzzo, è da preferire, da assumere più volte durante la settimana, e anche quello che spesso viene evitato, cioè la verdura o i legumi come i ceci, i fagioli, che hanno un compito importantissimo, perché per esempio a livello intestinale si è visto di recente che servono per sviluppare tutti quei microrganismi che noi abbiamo nell'intestino che caratterizzano il microbiota, che sembra avere proprio un ruolo chiave nello sviluppo dell'adolescente e anche in tutte le sue funzioni cognitive. Quindi noi ci fermiamo, il professor Scapagnini resta con noi insieme al professor Sorrenti per raccontarci quali sono i nutrienti gentili dell'età adulta e dell'età della saggezza. Restate con me. La bufala in tavola. Siamo quello che mangiamo? Sì, lo abbiamo ripetuto tante volte, allora mangiamo gentile, scegliamo i nutrienti gentili, quelli che rispondono alle nostre necessità, alle necessità del nostro organismo, necessità che cambiano di età in età. E insieme al professor Scapagnini affrontiamo l'età adulta e l'età della saggezza, mentre col professor Sorrenti siamo andati a scoprire quali sono i nutrienti gentili per le due fasi così importanti che sono quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Professor Scapagnini, siamo cresciuti, siamo adulti? Sì, bene, dobbiamo continuare a gestire le nostre energie mentali, ma questo forse è anche un momento storico in cui vale la pena sottolineare. Proverei anche ad usare un po' di più, perché ci spostiamo su un tema che è la gentilezza intesa per quello che è, cioè far del bene alle persone se in maniera disinteressata, nella sua accezione più completa. La gestione dello stress, la capacità di alcuni nutrienti di aiutarci a sopportare le difficoltà da un lato e fornire le energie necessarie anche da un punto di vista psichico per una vita attiva che normalmente caratterizza l'età adulta, rappresentano probabilmente uno degli esempi più diciamo calzante con il concetto di gentilezza. Noi sappiamo che l'idea della gentilezza è un comportamento che è alla base dei legami sociali e lo stress normalmente è un elemento che ci distoglie dalla vicinanza delle altre persone, quindi esistono molti composti contenuti nel cibo in grado di supportare a livello proprio cerebrale la gestione dello stress e la capacità di relazionarci meglio con il nostro prossimo, e credo che nell'età adulta soprattutto questo aspetto rappresenti veramente un elemento cruciale. Faccio degli esempi, per esempio la bevanda più bevuta dopo l'acqua al mondo è il tè, e il tè contiene, oltre a sostanze che danno tono energetico al cervello come le catechine, che sono dei polifenoli, un aminoacido molto particolare che si chiama L-teanina, che è in grado di donarci del benessere, esattamente mimando quello che succede quando si fa meditazione, e quindi è veramente un nutraceutico, un composto che potremmo definire gentile. E quando ci spostiamo invece sull'età, diciamo sulla terza età, evidentemente l'abbiamo definita l'età della saggezza. L'età della saggezza ci introduce al concetto di supportare in questo caso le funzioni cognitive e il mantenimento anche delle funzioni diciamo muscolari, osteomuscolari, che ci permettono di vivere in salute il più a lungo possibile. Però evidentemente durante le fasi dell'invecchiamento alcuni alimenti possono rappresentare veramente un supporto importantissimo. Si parlava prima del pesce azzurro, il supporto di sostanze come gli omega 3 contenuti nel pesce, che nel bambino hanno un ruolo importante nel formare il nostro cervello, nell'anziano hanno l'altrettanto importante ruolo di mantenere nel tempo le giuste funzioni del nostro cervello. E non dimentichiamoci le proteine di origine vegetale, gli anziani hanno bisogno di molte più proteine, e sicuramente, sempre ritornando al concetto di gentilezza, abbondare in frutta e verdura, ma soprattutto in legumi, che sono un'ottima fonte di proteine vegetali, rientra nell'idea del cibo gentile per l'età della saggezza. Professor Scapagnini, professor Sorrenti, vi ringrazio, siete stati davvero gentili a venirci a trovare, vi auguro una buona domenica e spero di sentirvi presto. Buona giornata, buona domenica. Ma in una settimana settimana tutta dedicata alla gentilezza, in cui abbiamo festeggiato la giornata mondiale della gentilezza. Chi potevamo invitare se non Daniel Lumera, grande esperto nell'area delle scienze del benessere, che ci ha accompagnato per tutta la settimana della gentilezza. Daniel, eccoti qua. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Daniel, tu sei sardo. Ecco, quale piatto gentile tipico sardo ci vuoi portare? Perché insomma noi ti invitiamo, ma tu gentilmente porterai pur qualcosa. Allora, in questa tavola io oggi porto le seadas. Tu conosci le seadas? Mamma mia! Che sono un piatto che a me ricorda il sole, però è un piatto, è un dolce tipico sardo con un po' di formaggio dentro, ma è condito con il miele. Guarda, hai fatto centro, c'è Pietro alla corte, che io soprannomino il principe, perché lui è davvero una persona gentile sotto ogni profilo, che si è illuminato, visto gli occhi fuori dalla sua mascherina, gli piacciono. Quindi se, quando mai ci ritroveremo, mi raccomando, una bella cofanata di seadas. Va bene, le facciamo insieme e poi le serviamo con tanta gentilezza, perché chi ti serve le cose, se le serve in maniera gentile, guarda, davvero il piatto è più buono. Il piatto è più buono. E anche noi come ci poniamo davanti al cibo, Daniel? Innanzitutto noi abbiamo perso la ritualità. La ritualità è una cosa importante, la ritualità vuol dire essere presenti in un qualcosa di unico, in un miracolo che sta accadendo. E se tu ci pensi un po', il fatto di poter mangiare semplicemente il cibo che noi mangiamo è un privilegio che non è concesso a tutti gli esseri umani. Noi ci dimentichiamo che la stragrande maggioranza degli esseri umani presenti in questa terra vive con meno di un euro al giorno, non ha l'acqua potabile a casa, non ha neanche l'acqua calda. Quindi il fatto di rendere omaggio alla nostra tavola, a questa ricchezza, perché è un privilegio, attraverso la gratitudine di quello che ci apprestiamo a fare, è entrare in una, l'ho detto prima, il termine è bellissimo, ritualità. Noi abbiamo perso per esempio l'abitudine di ringraziare prima di iniziare a mangiare, ma non di ringraziare solo il cibo, ma chi l'ha cucinato, chi l'ha portato nella nostra tavola, le persone che l'hanno coltivato, il seme, la terra, l'acqua, il sole che l'hanno fecondato. C'è una meraviglia intera di gentilezza, di bellezza di fronte ai nostri occhi, e noi siamo di fronte magari alla televisione accesa con un bisticcio a tavola, a proposito, con elementi che ci inquinano. Quindi la cosa migliore a tavola è quella di ritualizzare il pasto, di ricordarci e di testimoniare che è una grandissima fortuna. La gratitudine è un elemento importante in questa tavola della gentilezza, soprattutto in questo periodo, tra l'altro. Assolutamente, Daniel. E chiudiamo con un consiglio di gentilezza da portare alla bufala in tavola? Allora, innanzitutto il consiglio è quello di ringraziare il cibo che abbiamo a tavola, facendo fare il ringraziamento se ci sono dei bambini, cioè chiedere prima di mangiare al bambino presente nella tavola di fare un ringraziamento alle persone che ci sono e a quello che possiamo mangiare. In questo modo si comincia il gradiente segreto, che è la gentilezza e la gratitudine, che rende tutti i cibi più buoni. Quindi ringraziate prima di iniziare a mangiare, sempre. E io ringrazio Daniel Lumera per essere stato con noi. Grazie Daniel, ci sentiamo presto. Buona domenica, buona gentilezza, buone seadas. Buona gentilezza a tutti. Ringrazio Pietro Lacorte che è in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo, se volete, domani, subito dopo il primo GR di apertura del palinsesto, per risvegliarci insieme. Buona domenica da Nicoletta.